La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto di lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Con l'articolo 120 si continua la parte sulle regioni. Ed è quella parte che è stata riformata nel 2001. Nel 2001 la riforma costituzionale ha cercato di disegnare un sistema quasi federale. Ed ecco allora che il primo comma dell'articolo 120 vieta alle regioni di istituire dazi di importazione, esportazione o transito, di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione, limitare l'esercizio del lavoro nelle varie regioni. Questo è un articolo, un comma chiaramente federalista, nel senso che in uno Stato federale le diverse regioni non possono porre ostacoli e barriere. Il secondo comma, invece, riguarda il potere sostitutivo dello Stato sulle regioni, perché comunque in uno Stato d'impianto federale, quando una regione ponga in essere comportamenti che non rispettino trattati internazionali o norme comunitarie, pongano gravi pericoli per l'incolumità o la sicurezza pubblica, oppure quando lo richiedano tutela dell'unità giuridica, unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, a quel punto il governo può sostituirsi agli organi regionali, provinciali e comunali. Quindi l'articolo 120 secondo comma è un articolo di chiusura, cioè l'articolo che consente allo Stato di sostituirsi per inadempimenti regionali, per garantire l'unitarietà della Repubblica.